Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno e bentrovati su Mix 24. Prima di lasciarvi per l'ultimo venerdì in compagnia di Alessandra Fiori e di Alessandra Cravetto, vogliamo fare un omaggio a una grandissima della televisione italiana che proprio questa domenica festeggia il suo compleanno. Per l'anagrafe è Raffaella Pelloni, ma per tutti è Raffaella Carrà, icona del piccolo schermo e della storia del costume italiano. Una protagonista del varietà con Canzonissima, Mille Luci, Ma che sera, Pronto Raffaella, poi Domenica in Fantastico, Caramba che sorpresa e tanti altri. Ha fatto la storia della televisione italiana. Ecco sì, e cominciamo dall'inizio. Il primo annuncio, come dire il primo vagito, la prima foto nell'album di famiglia, come dire la foto del neonato sdraiato sulla pelliccia nudo. Ma che sera con Raffaella Carrà. Unica, Raffaella Carrà è unica. Come si fa a definire Raffaella Carrà? Raffaella Carrà è Raffaella Carrà, non ce n'è una, non ce n'è stata una uguale prima e non ce ne sarà una uguale dopo. Dunque Raffaella, da Pelloni il suo vero cognome a Carrà, nome d'arte, perché? Dunque mi è stato cambiato, devo dire la verità, e non mi piaceva Carrà inizialmente. Ma chi è venuta? Me l'ha dato Dante Guardamagna, perché Pelloni in realtà suonava sempre o Pelloni o Belloni, era difficilissimo far capire il cognome. Allora, per semplificare le cose, lui mi ha detto Raffaella è il nome di un pittore, Raffaello evidentemente, e mettiamone un altro accanto con il suo cognome, che è Carrà. Quell'ombelico, quelle mosse, quella bocca straordinaria, quella bellissima ragazza che si agitava sullo schermo nell'Italia di quegli anni, rappresentava qualche cosa che andava al di là del kitsch dei suoi pantaloni, dei suoi top, dei suoi ballerini. Non ci accorgevamo che Raffaella Carrà fosse kitsch, perché era il nostro kitsch condiviso. Lei e noi eravamo tutti quanti assolutamente kitsch. Il primo giorno che la incontrai mi disse: guarda Luca, io mi metti una calzamaglia d'oro, posso uscire per strada. Ma se mi metti l'abito bello di sartoria, come farebbe una signora, sembro una segretaria. Quindi lei aveva una grande coscienza sul fatto che il suo fisico, con la sua coscia brasiliana, perché lei aveva le cosce da brasiliana, e il suo atteggiamento, la sua energia, non poteva essere chiusa all'interno di un abito rigoroso di stile. Per cui io dissi: guarda, non c'è problema, faremo degli abiti di scena, dei costumi che sono anche dei vestiti da sera. Ballo, ballo, ballo da capogiro, ballo, ballo, ballo senza respiro, ballo, ballo, ballo, mi invento un passo che fa così, fa così, così. Ma chi è che ha fatto un film con Frank Sinatra, ha ballato il tuca tuca ed è stata trascinata letteralmente per i capelli da Gianni Boncompagni e dai Vergottini, seduta su una poltrona, messa davanti a uno specchio con Gianni Boncompagni che dice: per favore, createmi una pettinatura per questa donna per cui possa ballare, scatenarsi, eccetera, eccetera, e un secondo dopo che ha finito di ballare abbia i capelli nuovamente a posto. Nacque così la pettinatura di Raffaella Carrà. A che sera con Raffaella Carrà! In fondo, il tuo indirizzo qual è? Io personalmente sono convinta che così un'attrice possa e debba fare oggi tante cose sì. Diverse, cioè cantare, ballare e recitare sono le tre cose più importanti, no? Sì. A un certo punto non ci si può fossilizzare in una via sola, si può fare la prosa seria, la prosa impegnata, la prosa allegra, così sempre cercando di farla bene naturalmente. Sì. E soprattutto una cosa più importante è fare quello che ti piace, cioè se mi propongono una cosa divertente in televisione io la faccio. E adesso, per l'ultimo venerdì qui su Radio 24, vi lascio in compagnia di Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Ciao Fiori, buongiorno. Senti, siamo un po' come la Carrà noi due, no? Beh, sai per cosa? Per il kitsch dei tuoi pantaloni o per la mia calzamaglia d'oro? Secondo me di più per le cosce brasiliane. hai ragione. Ma soprattutto perché lei ha detto una cosa: se mi propongono una cosa divertente, la faccio. Allora facciamo l'annuncio. Anche noi. Ah sì. Se ci propongono una cosa divertente, noi la facciamo. Esatto. Però solo cose divertenti. Sì, solo cose divertenti. Però in effetti la Carrà sapeva ballare, sapeva cantare, sapeva recitare. Beh, no, e perché noi no? No, noi identiche. Hai ragione. Non bisogna buttarsi giù in questo momento. Bisogna ripartire alla grande. Sì. Anzi, io guarda, oggi che è l'ultimo giorno, ti vorrei fare una dedica. A me? Sì. Per tutte quelle volte che abbiamo fatto delle gaffe mostruose, quelle volte che abbiamo detto un sacco di cazzate, ma soprattutto per tutte le volte che abbiamo letto gli articoli e che non abbiamo capito niente, soprattutto per quelli. Ecco, io ti dedico questa. No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Cravetto, mi fai piangere? Anch'io, mi emoziono. Ti fai piangere? Cioè, mi faccio piangere. Cravetto, niente rimpianti quindi? No, mai, nessuno. Una delle cose più belle da poter dire nella vita. Io vorrei tanto, tanto poterlo dire, però... Dillo! Non lo so se ci riesco. Ecco, si pareva, insomma, le goccette abbiamo visto no, che ancora non funzionano ancora tanto del bene. Tutto risolutive. Perché tu in realtà sei un po' così. Sei proprio un ragazzino, pieno dei complessi, pieno dei paure. Sei piena dei complessi e dei paure, ma lasciate andare. Una volta tanto ti dico che hai ragione. Piena dei complessi, piena dei paure, tutto vero. Mi hai dato ragione, l'ultima puntata è un grandissimo... Successo. Ma senti questa, perché anch'io ho una canzone per te, perché tu hai tirato fuori Verdone, il mio Verdone. Allora io ti dedico una canzone di un altro romanissimo. Stare insieme a te è stata una partita, va bene, hai vinto tu e tutto il resto è vita. Ma se penso che... Quindi ho vinto io, ecco, ce l'hai detto, l'hai ammesso. Grande Fiori, grazie ovviamente, mille, non dovevi. No, il messaggio era un altro oggi. Quale? L'amicizia. Nostra? Allora non avevo capito niente. Lo vedi come sei? Era poesia romana. Ah, deve essere quello, proprio perché è romana, per cui non riesco a capirla per bene. Per te è un nonsense. Nessuno. Bene. Però in questi giorni ci sono arrivati un sacco di messaggi. A noi due? No, e poi io uso questo plurale maiestasis, mi ci metto dentro perché mi conviene. E quindi ve li risparmiamo tutti quanti, però io uno solo lo vorrei leggere. Uno per tutti? Sì, anche perché era per Giovanni, è arrivato a lui. E quindi lo facciamo anche un po' nostro, esatto, va bene. Tutto. Facciamolo un po' nostro. Ogni amore lascia sempre una ferita e la cura è sempre un nuovo amore. Hai amato questa radio che ti ha curato una ferita profonda, troverai presto un nuovo amore. Quindi Minoli è fidanzato? No vabbè, Cravetto, no, non quindi hai capito. Quindi Minoli ha trovato un nuovo amore, una notizia pazzesca. Non hai ragazzi capito. Attenzione, pronti per quest'estate. Te la spiego. Perché, sì. Te la spiego. Non è così? No, un'altra radio, troverà presto un'altra radio. Ma quello si sapeva, anche senza il messaggio sull'amore, si sapeva, dai. E noi andiamo con lui? Ovvio. Bene, quindi vieni anche tu. Ti scoccia la cosa? No, figurati, però non lo sapevo. Ma dove vai senza di me? Dove vai? Vabbè, senti, intanto ripartiamo da qui, senti. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità. Vuoi cambiare il mondo? Io sì, sempre. Ah sì? Certo. Ma lo sai che una notizia di questa settimana mi ha colpito e riguarda... L'oroscopo, come al solito, l'hai certo letto oggi. Ma quella... Tutto bene, Saturno, tutto benissimo, Marte. Contro, c'ho una serie di congiunzioni astrali. Sì, ma si risolveranno, tu dici? Sicuro. Lo dice anche l'oroscopo. È una carriera sulla quale sto lavorando e che sto costruendo, quindi non fare... Che ti riuscirà benissimo, esatto, non sicuro fare facili ironie. No, la notizia riguarda uno che il mondo, il suo sicuramente, l'ha cambiato. Perché è Zavoli. Oh, finalmente torni la Fiori di sempre con una certa levatura culturale. Zavoli, lo sappiamo, la RAI è un giornalista straordinario. Mm. La notte della Repubblica se la ricordano tutti. Tutti, tu hai tutta la collezione, la Cravetto stasera se la rivede. Comunque sei sempre un po' troppo colta per grazie, me, lo sai. Grazie, lo sai, grazie, ma io grazie. Mi ci sono abituata a questo. Però bene. Pensa che questa volta ti stupisco perché la notizia di Zavoli è un'altra, non riguarda la RAI, ma il cuore. Ah, Sei cravettizzata? Mi sono cravettizzata perché infatti non capisco come ti possa essere sfuggita. Sergio Zavoli ha 93 anni, si è sposata. Bravo. Sposato con una giornalista di 51 anni che si chiama Alessandra. Ecco, quindi il tuo protagonismo ti ha colpito perché lei si chiama Alessandra. Ovvio, no? Ovvio. Ma forse anche un po' per i 42 anni di differenza, no? Sì, ma a me sembra il minimo, guarda, la giusta differenza di età è più o meno 42, trovo. 42 più o meno, sì, dai, come 42 la giusta taglia. In su. La giusta taglia, 42 è il numero perfetto. Esatto, sempre, sempre. La giusta distanza. L'altro giorno io ho letto un post che ti voglio citare, posso? Sì. Unisce molto di più la paura della solitudine che l'amore. Non l'ho capita, però, ecco. Però ti faccio una citazione io che secondo me è un po' più semplice. La capisco? Secondo me sì. Allora, prova. Madonna ha 58 anni e il suo ragazzo ne ha 25. Jennifer Lopez ne ha 46 e il suo ragazzo ne ha 29. Sì. Berlusconi ne ha 80 e la sua ragazza ne ha 31. Per cui non preoccuparti se sei single, forse non è ancora nato. Un uomo sta affogando. Che fai? Ti tuffi o rimani sulla tua barca? Questa domanda e soprattutto la sua risposta sono al centro di Appunti per un naufragio di Davide Enia, in cui un padre e un figlio osservano la storia compiersi davanti a loro nel mare di Lampedusa. Gli sbarchi, i soccorsi, le morti, il dolore e la ricerca delle parole giuste per raccontarlo. Esistono solo due istinti, il proteggersi e l'aiutare il prossimo. Perché anche quello di aiutare è un istinto. Lo dice Paola, una delle protagoniste di Appunti per un naufragio. Lei è davanti alla TV quando vede un numero enorme di persone sbarcare sulla spiaggia davanti a casa sua. La sua prima reazione è chiudiamoci dentro. Poi, invece, spalanca le porte e corre sulla spiaggia. Davide Enia, insomma, è di fronte alla sofferenza reale che scopriamo chi siamo veramente. Uno degli aspetti più insopportabili di quanto sta accadendo è che queste persone che approdano nei nostri lidi rappresentano uno specchio dentro il quale noi vediamo chi davvero siamo noi stessi. La grandezza di una civiltà, la grandezza di ogni singolo essere umano, si vede davvero dalla eccellenza della risposta rispetto alla gravosità di una situazione presente. Ecco, Paola dice anche che la paura del diverso, di quello che non conosci, è normale e che se la superi la prima volta probabilmente non ti si ripresenterà mai più. Quindi anche a non aver paura si può imparare. Ah, ma l'esistenza umana è fatta dall'imparare ogni singola cosa. Si impara a camminare, in qualche modo il corpo impara anche a respirare e impara a non avere paura. Tu a Lampedusa sei andato con tuo padre, che è un cardiologo in pensione con la passione per la fotografia, ed è proprio lui a dire che le immagini, anche mettendoci di fronte a realtà allucinanti, lancinanti, ci lasciano però incapaci di capire quanto sta davvero succedendo. Ecco, come si racconta il dolore? Uno dei motivi per i quali ho scritto questo romanzo è cercare di comprendere come si può raccontare il presente nel momento della crisi. E ho preso atto di un fatto abbastanza semplice. La parola fallisce, non riesce a essere esaustiva, tant'è che il mio romanzo dichiara il fallimento all'inizio chiamandosi Appunti per un naufragio. Manca una pozione smisurata e sterminata della storia che abbiamo di fronte, cioè quella delle persone che stanno arrivando qui, perché neanche loro hanno capito che cosa gli è successo. Ci vorranno almeno altri 20 anni perché i traumi subiti possano rientrare, le ferite possano ottenere cicatrizzazione e la parola possa essere corretta nel depositarsi nella pagina e quindi nel creare strutture del racconto. Di tuo padre tu racconti i silenzi e quella che definisci la tua privata Siberia sentimentale. E scrivi anche che in meridione si sconta una difficoltà comunicativa in cui tacere è sintomo di virilità. Quindi parlare è un'attività da femmina, ma perché? Perché bisogna in qualche modo fare i conti con quella cultura assolutamente distorta che è il paternalismo, che ci pone a giudicare anche se non conosciamo le cose, a sentirci sempre nel diritto di esprimere un'opinione rispetto a un dato. Anzi, maggiore la distanza geografica, più forte il giudizio che diamo sul fatto e sul luogo in questione. Ma io faccio parte di una generazione, così come mio padre prima di me e il padre di mio padre prima di loro e via andando indietro, di uomini cresciuti dalle donne. Quindi abbiamo una visione assolutamente empatica del mondo e della realtà, ma l'occhio che guarda è quello del padre. E qui nasce il conflitto. Iniziare il dialogo significa scardinare tutte queste serrature e far entrare finalmente aria pura dentro l'architettura proprio del sentimento stesso. Proprio la scoperta dell'altro e del suo dolore ti fanno scoprire anche un diverso rapporto con tuo padre. Quindi anche la generosità e l'apertura emotiva è qualcosa che si impara. Ma porca miseria, si impara addirittura a piangere, ed è una cosa che fa benissimo, e si impara a nominare le cose. Avevo visto delle immagini che mi avevano traumatizzato tramite i video della Guardia Costiera e sono rimasto 3 giorni chiuso a casa a fare marmellate, finché ho iniziato a raccontare quello che avevo visto. Raccontare crea distanza tra te e il fatto, anche perché tu senti la tua voce dire quelle cose e inizi a calibrare esattamente quello che ti è successo. E poi, diciamoci la verità, è bello sentirsi dire ti voglio bene, quindi anche è bello dirlo. Davide Enia, Appunti per un naufragio, Sellerio. Bello, brava Fiori, anche vero? Questo è molto bello. Vero? Sì. E poi soprattutto mi è piaciuta la parte in cui dice che tutto si impara. Che per, ecco. Quindi per tutto c'è speranza, mi vuoi dire? Esatto, soprattutto si impara la generosità emotiva. Quindi anche tu hai speranze. Non esagerare, non ti allargare, questo non è affatto detto. Senti, vabbè, cambiamo argomento. Perché tu con le tue borse in cui metti di tutto, ti ci perdi dentro? No, io mi perdo proprio la borsa. Ecco, allora in questo caso non è la soluzione, però per gli altri sì. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Simone Trapani, 17 anni, frequenta il liceo classico V Orazio Flacco di Portici. Insieme alla sua classe, la quarta futura quinta A, ha creato una borsa molto speciale che risolve tantissimi dei problemi delle donne che perdono tutto nella borsa. Lei si chiama Flash B. Simone, che cosa ha di speciale la vostra borsa? La luce all'interno della borsa. Quindi è una borsa che si illumina quando la apri? Sì, automaticamente quando si apre la borsa si accende questa striscia LED e si spegne automaticamente alla chiusura. Come è alimentata questa luce? La luce è alimentata da delle pile che sono riposte all'interno di un taschino fatto su misura all'interno della borsa, e nonostante siano normalissimi stilo, abbiamo basato il consumo della luce, quindi comunque la durata della luce, proprio sulla scelta del LED e non di una semplice lampadina. Quindi quanto durano più o meno le batterie? Ogni quanto le devo cambiare? Forse 2-3 mesi bisogna cambiarle. Senti, tutta la tua classe ha partecipato al progetto, ma l'idea a chi è venuta? Allora, tutta la classe ha partecipato al progetto, però l'idea è venuta da questa nostra amica che Serena Cepollaro, che guardando il frigorifero di casa sua una notte ha pensato, ma perché non mettere questo meccanismo del frigorifero, della luce dentro al frigorifero in una borsa? Cioè, io avrei la metà dei miei problemi nella vita più o meno, perché sarebbe molto più facile ricercare gli oggetti. Senti, ma per quel che riguarda il disegno, il cartamodello, la scelta dei materiali, avete fatto tutto voi? Sì, assolutamente. Senti, quanto costa una borsa più o meno? Una borsa costa 150 euro. Ne avete già vendute? Sì, ne abbiamo già vendute. Quante più o meno? Intorno alla 15ina, perché comunque ci rendiamo conto che il prezzo è alto. Dov'è che si può vedere Flash B? Avete un sito? Avete un profilo? Abbiamo un profilo Facebook e Instagram, e la vendita è diretta. Questo progetto della borsa Flash B, tra l'altro, ha vinto anche un premio importante. Ne ha vinti più di uno. Ecco. Quest'anno abbiamo avuto questo grande riconoscimento dal MIUR. Volevo l'ultima cosa, volevo dire l'ultima cosa. Noi, il nostro slogan è Just Shine On, perché noi non ci vogliamo perdere l'opportunità di illuminare la giornata di una donna. Cravetto, Just Shine On, quanto sei chic per illuminare la giornata di una donna. Carina, no? Molto. Te l'ha illuminata la giornata? Molto. Sì. E poi ho pensato che comunque quando proprio va male la borsa te la metti in testa. Quindi mi illumina sicuro. Per cappello? Esatto. Krav, è estate, non so che programmi hai. Anzi, tantissime, bellissime. Lo so, li conosco benissimo, però so anche che rimarrai un pochino a Roma ancora. Il meno possibile. Però ci sei intanto. E quindi io ho una cosa molto bella da consigliarti. La Casa Internazionale delle Donne per il terzo anno diventa una piazza aperta a tutti e apre il suo centenario Giardino della Magnolia con la Casa Spiazza. Quindi cinema, incontri, musica e teatro per godersi gli spettacoli nella corte interna di uno dei più bei palazzi seicenteschi di Trastevere e anche per conoscere e sostenere chi da oltre 20 anni promuove e valorizza la creatività delle donne in Italia e all'estero. Quindi Marina Del Vecchio, vicepresidente della Casa Internazionale delle Donne. Cosa prevede il programma quest'anno? Quest'anno il programma, grazie anche all'aiuto di una professionista che si chiama Maria Luisa Celani, che ha seguito diciamo, la parte organizzativa e anche artistica, è riuscita diciamo, a organizzarsi in 4 sezioni: donne in cinema, donne in scena, donne in musica, donne incontri. Tu cosa ci consigli nei prossimi giorni? Consiglierei in particolare un po' di teatro, perché abbiamo cercato di usare una chiave ironica anche quando parliamo di cose molto serie o molto gravi. Lunedì per esempio c'è la Valeria Perdonò che ha uno spettacolo che si chiama Amorosi a Sottini, puntini, facciamo finta di niente, dai, e quindi ti puoi immaginare il tema. Beh, sì. Ed Emanuela Grimalda che fa un'altra serata che si chiama le difettose siamo noi donne naturalmente. Un'altra cosa che potrei dirvi, perché mercoledì 21 c'è la festa della musica a Roma e noi abbiamo scelto una chiave che è quella di presentare le nuove cantautrici romane, Chiara Padellaro, Ilaria D'Amore e Livia Ferri. Una sezione a cui tengo particolarmente, abbiamo cercato di parlare di donne eccellenti e abbiamo ancora 2 incontri sempre in questo periodo. Una si chiama 9 vite come i gatti ed è Margherita Hack, che ha scritto un libro con questo nome. E l'altro? Hannah Arendt, un documentario poco conosciuto sulla sua vita anche personale. Questo comunque è solo l'inizio di quella che dovrebbe essere una lunga estate, perché la manifestazione finisce il 28, ma la Casa Spiazza tornerà a luglio e fino a settembre. Ma certo, c'è un'associazione vicino a noi che si chiama Doppio Ristretto che fa di nuovo il tema di fondo, la modalità rimane sempre quella, sono una 20 di incontri con spettacoli, presentazioni di libri e musica, dove incontreremo 2 vecchi amici della casa che sono Zero Calcare e Ascanio Celestini, perché non è che noi gli uomini non li vogliamo far venire, facciamo venire... Ah, quindi li accettate? Ma certo! Allora non so se vengo. Tra pubblico ne abbiamo tantissimi che arrivano con l'aria dissidente sì. E poi vengono sempre perché si divertono, perché stanno bene, eccetera. Ad agosto ci saranno 10 giorni di jazz al femminile, con un omaggio speciale a Ella Fitzgerald e autrici, musiciste e cantanti che presenteranno le ultime novità del jazz nazionale e internazionale. Ah, quindi non è più come Paolo Conte, le donne odiavano il jazz. Le donne sono bravissime a fare il jazz. Abbiamo anche delle cantanti e musiciste jazz straordinarie, anche in Italia. Tutte le info sulla manifestazione della Casa Internazionale delle Donne vi rimandiamo al sito che è esatto. www.casainternazionaledelledonne.org. Esatto. Grazie a Marina Del Vecchio ed è una bellissima manifestazione in una corte interna pazzesca. Allora qui andiamo insieme, eh? Lo vedi, allora ammettilo che non puoi fare a meno di me. Lo ammetto. Davvero? Fatta. È così. Sul serio? Sì. Vabbè, con i Rolling Stone, solo con loro, giusto con loro, non poteva che arrivare Franco Schifani che si è unito a noi per salutarci. Ciao Frankie. Ciao Ale, ciao Ale, ciao a tutti, ciao. Frankie, don't stop, io non ho capito chi è che non si deve fermare, noi... No, tu, nessuno, voi, no. Io volevo dedicare un brano a Giovanni e a tutti quanti noi, ovviamente. Avevo pensato a My Way, di Sinatra, però ho detto no, troppo smielato. E finiamo come abbiamo iniziato con un sano rock and roll. Don't stop, non ti fermare. Mai. Never. Poi, giustamente i tuoi Rolling Stones. Ladies and gentlemen. Ridimmelo come lo dici te. Ladies and gentlemen. The Rolling Stones. Allora, a questo punto, per una volta, saluto prima Franco Schipani. Ciao. A malincuore. A malincuore. Ciao Frank, è stato bellissimo. Anche per me. Vabbè. Te l'hanno detto spesso? Crap. Mai. Non te l'hanno mai detto? Qualche volta, tra un matrimonio e l'altro, ma queste sono cose particolari. Secondo me non ti hanno detto quello tra un matrimonio e l'altro, però io non lo voglio sapere. Ciao non a tutti, ciao, a presto, ciao. Ciao Frank. Crap, ci siamo, è finita. Sei sempre tragica comunque. No, solo teatrale. Vabbè, allora, è finita. Sì. Lo diciamo allegramente. Tu lo puoi dire, io no, vedi come sei. No, no, ma con allegria non ci resta che dire un grazie enorme. A tutti quelli che ci hanno ascoltato, sopportato, supportato. Insultato. No, di quello no. Sì, perché gli insulti sono sempre anche quelli molto costruttivi, per cui guarda come si è migliorata. Vabbè, oggi da Cravetto ha scelto la via dell'autocritica e della dolcezza. E quella dell'apertura emotiva, che come ti dicevo, ecco, è possibilmente da applicabile lavorarci. Anche a me. Sì. Non ne sono convinta. Comunque non rimane che ringraziare lui, il Giovanni. Mitico. Giova. Grazie, Gio. Grazie di tutto, veramente. Che ci ha anche lui sopportato. E sopportato. Hai sentito, l'ho detto con la U, che era anche ecco, un po'... Allora, dico, sopportato e sopportato soprattutto. E gli dedichiamo una canzone, che è la canzone di un capitano. Che per casa... ha solo il ciel. Il suo teschio è una bandiera, che vuol dire libertà. E allora, ciao da Alessandra Fiori, Ale Cravetto, ed ecco a voi la canzone per Giovanni Minoli.